Ciao a tutti, sono Milo Colli. Per un certo periodo di tempo non potrò occuparmi di Jet Set Radiocast. Tuttavia, siccome non siamo qua a smacchiare il giaguaro, inizio con questa puntata lo spin-off che vi terrà compagnia nel frattempo e che spero continuerà anche dopo il mio ritorno. Vi lascio in buone mani, parte la prima puntata di Jet Set Radiocast Superstar Edition. Buonasera, alle mie spalle si trova uno dei tesori dell'archeologia. Per oltre 3 millenni era rimasto nascosto in questa zona desertica, semi-abbandonato. E persino il nome del grande faraone che l'aveva fatto costruire era andato perduto. Alla fine dell'Ottocento due personaggi restituirono questo luogo straordinario all'umanità, in modo che tutti coloro che navigavano lungo il Nilo potessero ammirare la sua potenza e il suo dominio su un impero che si estendeva dalla Nubia fino alla Siria. ま、しくめた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。背が高しろ、背が高しろ、背が高しろ。 カラオケナンパにクラブ他にすることあるだろうが、触れなきゃ遊べぬやつらには心に問いかけるぞ。背がたさんしろ、背がたさんしろ、背がさたんしろ。 Radiocast, io sono Superstar Siero e come vi ha anticipato Schubert sarò io a condurre questa puntata. Come forse avrete immaginato, l'inestimabile tesoro perduto riportato alla luce dopo anni di oblio è un gioco. Stiamo parlando di Propeller Arena Aviation Battle Championship. Che il faraone che ne ordinò la costruzione non può che essere il grande maestro Yu Suzuki. Titolo cancellato alla fine del 2001 improvvisamente a pochi giorni dalla pubblicazione ed effettivamente ritenuto scomparso almeno fino al suo ritrovamento nel 2004 quando è stato rilasciato in rete. Preferisco non entrare nel merito di questi eventi perché si parte da tematiche abbastanza difficili per poi scadere in una serie di aneddoti abbastanza imbarazzanti che preferisco lasciare alla vostra eventuale curiosità. Mi preme però sottolineare come il ritrovamento e la diffusione al pubblico di Propeller Arena sia da considerarsi un evento di straordinaria importanza. Non stiamo parlando di una beta malapena giocabile o di una conversione come fu Half-Life, ma di un gioco di fatto completo sviluppato da M2 per Dreamcast e mai rilasciato su nessun'altra piattaforma, rendendolo di fatto una delle esclusive di maggior pregio della console. Avete mai avuto l'impressione di essere stati fregati? La sensazione è forte non appena preso in mano il joypad, in senso positivo però, dell'immaginario bellico fatto di duelli aerei tra assi dell'aviazione di asse alleati, Propeller Arena ne mutua soltanto i protagonisti, gli storici monoplani ad elica come il Submarine Spitfire o il BF-109 tedesco, proponendo un titolo basato sì sul dogfighting, ma nella visione chiaramente arcade di AM2. Trascorsi i primi minuti di gioco a librarsi nei cieli, cercando di emulare le gesta di aviatori di altri tempi, la natura di Propeller Arena si manifesta nella sua semplicità alla prima schermata dei risultati. L'unico requisito per proseguire nel gioco è l'abbattimento di quanti più velivoli nemici possibile, fino al raggiungimento dell'obiettivo o allo scadere del tempo. Viene dunque premiato l'uso delle tattiche più scorrette, tra imboscate, attacchi suicidi e uso scriteriato dei power-up, presenti nell'area a complemento della mitragliatrice a colpi infiniti di cui ogni aereo è dotato. Il gameplay si traduce quindi nella caccia ossessiva e ripetuta all'avversario più debole, più lento o semplicemente più danneggiato, facilmente identificabile dalla scia di fumo nero che lo accompagna. Immaginatelo come una sorta di outrigger a propulsione. Mi pareva brutto dire FPS. Anche le arene in cui si svolge l'azione hanno poco da spartire con i teatri della Seconda Guerra Mondiale. Nella tradizione arcade del World Tour, gli scenari proposti spaziano dallo skyline americano al vecchio castello, non mancando di includere grandi classici come l'isola ghiacciata e quella con il vulcano. Ovviamente non poteva mancare lo scenario sopra le nuvole, per poter duellare completamente immersi nel celebre Blue Sky di Sega. Arcade e musica punk rock formano una coppiata già testata con successo in numerosi titoli di Sega. Pensiamo a Top Skater con i Pennywise o agli Offspring di Crazy Taxi. Per quanto riguarda Propeller Arena, in Sega l'avevano preparata bene. In uno dei trailer che precedeva l'uscita del gioco, la colonna sonora veniva presentata come una sorta di sfida tra la divisione americana e quella giapponese. Sega of America aveva ottenuto 9 tracce in licenza di band punk rock della Fat Track Chords, mentre in AM2 avevano fatto tutto in casa producendo 12 tracce originali. I musicisti scelti da Sega of Japan hanno fatto un ottimo lavoro producendo tracce stilisticamente credibili e che non hanno nulla da invidiare a quelle licenziate. Il risultato è una colonna sonora incisiva e calzante, un po' marcia e un po' melodica. Delle tracce, alcune di esse sono state poi riciclate e sono presenti nella colonna sonora di Virtua Tennis 3. seppur con un arrangiamento differente e in versione strumentale, sono riconoscibilissime ed è abbastanza divertente andare a riascoltarsi la colonna sonora, magari canticchiando i testi di Propeller Arena durante una serie di scambi a Virtua Tennis. Ascoltiamo un pezzo tra quelli scelti da Sega of America, tratta dall'album Hit for Six dei Consumed, questa è Wake Up With a Smile. Controllo è quanto di più lontano ci sia dalla simulazione di volo. In modo simile ad Afterburner, tramite la leva analogica è possibile soltanto eseguire le manovre più semplici, agendo limitatamente sul rollio e sul beccheggio del caccia. L'esecuzione delle manovre acrobatiche è invece assegnata all'apposito tasto Trick, che insieme alle diverse combinazioni di direzioni, come in un picchiaduro, permette di realizzare tutta una serie di manovre speciali, diverse per ogni personaggio. E per speciali intendo cose tipo volare all'indietro. Qualora riuscissimo ad arrivare in coda a un avversario, il tasto Trick permette anche di attivare un lock-on, durante il quale l'aereo insegue automaticamente l'avversario, lasciando al giocatore il solo compito di mirare e abbattere il nemico con relativa facilità. Machine guns ripping, howling. When the dark night tear a line and draws a star, streaks of black smoke fill the blue sky. See him now amid the battle, drying out in all his glory. Didn't stay and it's so great. But this is the way, this is the only way. Inside, to it right. No, look it on, move it on, it's a hot hit. Inside, to it right. No, look it on, move it on. It's a hard hit, inside, do it right. Now lock it on, move it on. It's a hard hit, inside, do it right. Now lock it on, right on. Mm-hmm. dei titoli AM2 è sicuramente un pizzico di follia, come la presenza dell'HKT 7007, il joypad del Dreamcast tra i personaggi sbloccabili, con tanto di lancio col paracadute della BMU in caso di abbattimento. Estratto dalla console il triste CDR con la scritta realizzata alla bella meglio a pennarello, non resta che rimanere allibiti al pensiero di cosa era rimasto a prendere polvere da qualche parte negli archivi di Sega e che avremmo potuto non giocare mai. E mentre gli scaffali dei negozi si affollano di spazzatura, la decisione di cancellare Propeller Arena non può che apparire in ogni caso assurda. Per preparare questa puntata ho rigiocato a Propeller Arena una decina di ore abbondanti, divertendomi come e più della prima volta, a dimostrazione di come rimanga oggi, a distanza di più di 10 anni dalla sua non pubblicazione, un titolo freschissimo, incapace di invecchiare come tutta la migliore produzione AM2. Nonostante in seguito siano usciti altri titoli per Dreamcast, tra cui l'ottimo Under the Feet, Propeller Arena rimane a mio parere, per le sue caratteristiche, la miglior testimonianza di quello che la console Sega avrebbe potuto continuare ad esprimere per molti anni. Termina qui questa puntata dedicata all'ottava meraviglia del Dreamcast, che mi auguro sia stata di vostro gradimento. Non mi resta che ringraziare Schubert per l'opportunità di partecipare al suo meraviglioso podcast e salutarvi sulle note di Survivor, brano che accompagna l'opening del gioco. Radio.